pesti, massacrati di botte. C'è una protesi alla gamba e non ce la faceva a stare 20 ore con le mani in faccia allo al muro. Allo stato attuale ne mancano 400 persone. Passavano questi poliziotti sputando dentro e dicendo che ne avevano ammazzato uno, ma avrebbero dovuto ammazzarne almeno 100. Assassini! Assassini! Qui è avvenuta una sospensione dello Stato di diritto. Mi hanno puntato un fucile dall'alto e questo mi diceva: alzati o ti sparo, alzati o ti inchiodo lì secco dove sei. Delle forti infiltrazioni da parte delle forze dell'ordine e da parte dei servizi. Io non voglio che dalle indagini e dalle commissioni non emerga anche... Cosa poi è successo nella caserma di Bolzaneto, che adesso qui a Genova cominciamo a chiamare la Casa delle Libertà. ...gruppi extraparlamentari, ma anche di qualche collega che siede sui banchi del Parlamento Repubblicano. Abbiamo sentito dei cori, frasi come abbiamo spaccato il culo. Restano le vetrine spaccate dai neri nell'indifferenza della polizia. Le manifestazioni di oggi: Barcellona, Bergamo, Firenze, Milano, Genova, Roma e Bolzano. Gli applausi del centrodestra in aula vengono coperti dai fischi e dall'urlo. La festa del corteo si è fermata davanti ai poliziotti e ha alzato le mani in alto come hanno fatto i ragazzi festati a Genova. Non portate bandiere, non intonate slogan, siete sobri e niente fiori, così come sarebbe piaciuto a Carlo. Come tanti ricci spaventati che cercano di incularsi, provate lì a salvarvi con un preservativo. Propongo un minuto di silenzio per Carlo Giuliani. Vogliamo un mondo migliore, persino meno schifoso, se guardiamo le cose più rivoltanti.